9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buon lunedì 27 febbraio e questi ultimi giorni di febbraio un saluto da gattaccio Oscar e un augurio a tutti coloro che si chiamano Gabriele. Gabriele oggi per chi festeggia il calendario liturgico. Prima di arrivare al tema del giorno, che sono i tecnici, con testimonianze dei tecnici che hanno provato in politica e provano ancora a, per così dire, rivoltare le cattive prassi pubbliche, rivoltarle come un calzino, a tentare di portare dentro l'efficienza del settore privato nel settore pubblico, con tutti i limiti certo di due cose che sono diverse, ma anche con l'incolmabile gravità di un pubblico succhiasoldi come quello che c'è in Italia e così poco efficiente come quello che c'è in Italia e che temo abbia poi una responsabilità gravosa nel fatto che poi le retribuzioni private italiane e pubbliche italiane siano così in basso nella scala graduatoria comparata come abbiamo preso in questi giorni. Ecco, quello sarà il tema della giornata, riflettere insieme ad alcuni tecnici che provano a cambiare le cose dal di dentro, anche se non per questo sono diventati politici a tutti gli effetti, sentendo dalla loro voce la loro esperienza. Avremo un sindaco, un assessore regionale, sentiremo da loro, ma intanto alcuni flash che come sempre ci ricordano che teniamo i Doors non solo perché siamo dei fan, vecchi fan di Jim Morrison, ma perché continuiamo a non essere convinti che l'Europa abbia voltato pagina. E allora c'è il G20 in corso, c'è il G20 in corso a Mexico City e dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung e dal Financial Times Deutschland trovate una serie di interessanti articoli sul fatto che Wolfgang Schäuble, il potente autorevole ministro delle finanze tedesche, in merito alla unione di ESM e FSF, i due strumenti salvastati di cui l'ESM è stato anticipato al prossimo luglio, l'unione e il rifinanziamento aggiunto in maniera tale che si possa arrivare quasi a un trilione di euro, trovate degli interessanti articoli nei quali in realtà la sintesi estrema, siccome non voglio farvi perdere troppo tempo, è che Schäuble dice una cosa in pubblico e dice un'altra poi nei meeting riservati. Nei meeting riservati del G20, secondo i due quotidiani, la linea esposta da Schäuble è quella del favore sia alla somma dei due strumenti sia alla loro ricapitalizzazione. Quindi quantomeno almeno 750 miliardi di euro. Naturalmente la posizione pubblica resta il fatto che non bisogna parlare. Secondo il Financial Times ci sarà una prima uscita pubblica tedesca non prima di aprile su questo tema. Quanto alle divisioni tedesche, sulla Süddeutsche Zeitung trovate insieme a Der Spiegel anche qui diversi pezzi che testimonierebbero come in prossimità del voto che c'è oggi al Bundestag sul secondo pacchetto di aiuti alla Grecia, perché sapete che al Bundestag si vota ogni volta perché questa è la clausola con la quale la Germania ha recepito i trattati europei, ogni qualvolta c'è un esborso sono solo i rappresentanti della sovranità popolare che possono autorizzarli e in avvicinamento, nell'avvicinarsi a questo voto la politica si è, il governo si è ancora una volta diviso. Süddeutsche Zeitung e Der Spiegel pubblicano dichiarazioni secondo le quali, ricostruzioni, perdonatemi, secondo le quali il ministro dell'interno Hans-Peter Friedrich della coalizione bavarese CSU-CDU per esempio si sporge dicendo che per conto suo, invece che votare questo nuovo secondo pacchetto, la Germania avrebbe dovuto incentivare la Grecia a lasciare volontariamente l'Eurozona. E secondo Süddeutsche Zeitung anche Wolfgang Schäuble, di cui abbiamo trovato sul Financial Times Deutschland e sul Financial Times le dichiarazioni invece al G20 a Mexico City, Schäuble resta assolutamente convinto, ci dice la Süddeutsche, che la strategia attuale con la Grecia non avrà successo e che quindi si fa per dire e ci si sta solo comprando tempo in previsione delle elezioni tedesche l'anno prossimo. anche il ministro dell'economia Philip Roessler dell'FDP dei liberali, secondo Der Spiegel, è convinto della stessa cosa. E quanto al Bild, il quotidiano tedesco che cito spesso perché è quello che passa per le mani di milioni e milioni di lettori tedeschi, quindi è ai tabloid che bisogna guardare per capire come poi viene rappresentata la vicenda dell'euro, perché così arriva alla pancia, insomma, dell'elettorato e dell'elettorato popolare. E Bild oggi c'ha un grande titolo, un enorme titolo, che dice no a più soldi alla Grecia. Non credo che debba aggiungere molto sul fatto che questo è il quotidiano che ha quasi 10 milioni di lettori quotidiani. Ecco, questo è il titolo che si trova questa mattina per i lettori del Bild. Vi risparmio le reazioni dei quotidiani greci all'apprendere che c'è una squadra di ispettori e funzionari delle tasche tedesche che si è offerta volontaria per riorganizzare le tasse in Grecia, perché la storia che viene oggi ripresa dal sito del Financial Times ieri e dal Financial Times stampato non è vista da Katemerini se non come una riproposizione di stivali sulla collina dell'Acropoli, ecco, stivali di un certo tipo. Queste cose non aiutano all'idea europea ad andare avanti, secondo me. Andiamo a alcuni columnist e poi ho finito. Wolfgang Munchau sul Financial Times dice che la Grecia si deve preparare a un default totale esterno, questi sono i due aggettivi che usa, total external default, non voglio aggiungere altro per farvi capire perché metto ancora i dots. E parlando con Der Spiegel invece, James Weidmann dice che la Bundesbank, per via dell'espansione del suo sostegno in target 2 alle altre banche centrali europee, abbassa significativamente i profitti, ed è una specie di avviso che il presidente della Bundesbank dà, che il continuo aumento dell'esposizione fino a verso i 700 miliardi nel sistema dei target 2 delle altre banche centrali europee, punto che spesso dimenticano tutti coloro che criticano i tedeschi dicendo che non si sono esposti a favore degli altri membri dell'euroarea, non può continuare indefinitamente. Ecco, mi fermo qua perché abbiate capito che anche oggi non era pura musica quella dei Doors. Veniamo al punto di oggi. Allora, il punto di oggi inizia con una testimonianza che ho ritenuto opportuno chiedere a chi? All'assessore alla sanità del Piemonte. L'assessore alla sanità del Piemonte si chiama Paolo Monferino. Chi non avesse seguito negli anni e con attenzione, perché non ha fatto giornalista economico oppure magari non è torinese come me, magari non associa il nome di Paolo Monferino a un manager di primo piano, di grandissima esperienza, di ottimi risultati del perimetro Fiat per decenni, quindi un manager che la politica di una regione che era alle prese con la necessità di dover rimettere mano con grande energia alla sua sanità fuori controllo, non solo a tagliare le spese, il problema è un modulo riorganizzativo che doveva essere adottato. A quel punto il presidente della regione Cota, confermato nel voto, di fronte alla durezza, alla necessità di questo programma di rientro, vi ricordo tutti che abbiamo 10 regioni in Italia sottoposti a programmi di rientro, 5 commissariate, ecco, questo è l'entità di un paese che non riesce a stare sotto i ritmi tendenziali di produzione di deficit sanitario malgrado anni di pressione su questo punto. Abbiamo fatto la puntata con il professor Pamolli del CERM e abbiamo rivisto le proiezioni di spesa sanitaria tutt'altro che rassicuranti, abbiamo visto come i meccanismi della perequazione hanno visto interrotti l'iter dopo i decreti attuativi del tavolo del federalismo sanitario, e quindi molto c'è da preoccuparsi per quello che avverrà nei prossimi anni. A maggior ragione, a fronte di tutto questo, il presidente della regione Cota chiama Paolo Monferino, l'assessore Monferino inizia da assessore a tentare di fare quello che la politica lo ha chiamato a fare. La politica in definitiva si è affidata a lui proprio perché dice così: non esprimi un partito della coalizione, ti fai un'idea, e su questo iniziamo ad accorpare aziende ospedaliere, aziende sanitarie, perché in Piemonte questo è stata proprio l'idea, e Io ho deciso di chiamarlo per raccontarci la sua esperienza. Se a suo giudizio, dopo questo generoso tentativo, ancora si ha dell'idea di poter tradurre efficienza, ordine, riaccorpamenti, miglior qualità per minore spesa, perché ha rilasciato, anche lui dopo l'onda di scandali nei pronto soccorsi, non solo a Roma e nella capitale, ma in altri ospedali, a un certo punto ha rilasciato un'intervista pochi giorni fa, giovedì 23 febbraio, sulla Stampa di Torino, nella quale l'ultima risposta, dopo aver spiegato i tanti tentativi di accorpamento, ristrutturazione di padiglioni ospedalieri secondo criteri di efficienza, non di taglio, ma per evitare duplicazioni inutili e moltiplicazioni dell'offerta che sono onerose e non sono efficienti, dopo aver spiegato qual è la mole di obiezioni alla quale ogni volta si trova a dover rispondere e che bloccano, in base ai poteri di veto che nella pubblica amministrazione prevalgono sempre sui poteri di realizzazione, e che lo bloccano la sua azione, a un certo punto l'ultima risposta, che ha suscitato molte polemiche in Piemonte, ha detto testualmente così l'assessore: la verità è una sola, nel mondo privato certe decisioni si prendono in 5 minuti perché sono sensate e utili, nel pubblico tutti hanno diritti ma nessun dovere. Apriti cielo, come potete immaginare, i sindacati di qua di là. Ecco, l'ho fatto questa lunga premessa perché Paolo Monferino è qui con noi, assessore alla sanità del Piemonte, e io lo ringrazio di essere qua, e gli chiederei, prima di entrare nel merito di quello che ha trovato, di quello che ha da fare, di partire esattamente da questa sua ultima dichiarazione. È stato il giornalista che ha fatto un torto all'assessore Monferino, al manager Monferino che parla ancora come manager, oppure no, è esattamente quello che pensa e sta iniziando a capire che è un po' un'opera di Sisifo, quella di tentare di fare efficienza nel pubblico. Buongiorno e grazie all'assessore Monferino. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, non so come cominciare, ma direi che sono alcuni mesi che noi stiamo lavorando su una riforma sanitaria, e questa riforma sanitaria dovrebbe portarci a risolvere, speriamo, un certo numero di questi problemi. Tra le cose che vogliamo fare è convertire un certo numero di piccoli ospedali in strutture che possano consentire anche ai pronto soccorso di lavorare meglio. I pronto soccorso sono intasati perché sostanzialmente gli ospedali fanno fatica a ricoverare quelli che al pronto soccorso si presentano. Questi ricoveri sono impossibili perché i letti sono pieni, perché facciamo le riabilitazioni a lungo degenze impropriamente negli ospedali dove ci sono stati degli interventi anche importanti. Se le riabilitazioni potessimo farle in strutture diverse che si occupano, tra l'altro a costi molto più bassi, di fare svolgere questo compito, gli ospedali avrebbero la possibilità di avere un flusso molto più rapido e accogliere più rapidamente anche i pazienti. Tra le varie cose che ci sono nella nostra riforma c'è appunto questo argomento. La riforma sta andando avanti da alcuni mesi con tante discussioni, molte opinioni, in un regime ovviamente democratico è giusto che molti attori del sistema vengano interpellati, però qualche volta si verifica che la moltitudine di questi attori in realtà rallentano fortemente un processo di cambiamento, e soprattutto il processo di cambiamento tocca moltissimi interessi di categorie, di associazioni eccetera, e quindi ci sono difficoltà a portarlo avanti. Senta, quando lo hanno chiamato, il quadro che le ha consegnato il presidente della sua regione, il presidente Cota, era: bisogna rientrare di quanti soldi e in quanto tempo? Ma dunque avevamo due problemi. Il primo problema era il piano di rientro che ci obbligava sostanzialmente a recuperare il disavanzo della Regione Piemonte in termini di sanità. Disavanzo inteso sostanzialmente, semplificando un pochino, come la differenza dei quattrini che lo Stato più la Regione Piemonte mettevano per sostenere la nostra sanità e ciò che metteva lo Stato. In realtà noi dovremmo mantenere la sanità sostanzialmente con il trasferimento statale. Questo non bastava e la Regione aggiungeva di tasca propria grosso modo circa 500 milioni. Una parte importante di questo è appunto quello che deve essere risparmiato, quindi qualche centinaio di milioni, tra 200 e 300 milioni. Ma questo è soltanto un pezzo del problema, perché il piano di rientro ci ha fatto partire una serie di azioni di contenimento costi che in effetti ha dato un risultato. Nel 2011, per la prima volta nella nostra storia, siamo riusciti a diminuire i costi della sanità, mentre invece nei 10 anni precedenti erano sempre aumentati mediamente del 5% all'anno. Quindi un certo successo, queste espiazioni del piano di rientro ce l'hanno data. Il problema è che bisogna arrivare ad azioni strutturali per poter garantire nel tempo il mantenimento del il contenimento o il controllo della spesa sanitaria. E questo è quello che stiamo facendo con la riforma sanitaria, che aggiungerebbe in termini di razionalizzazioni qualche centinaio di milioni all'obiettivo del piano di rientro. Questo sostanzialmente è quello che dovevamo fare. Ecco, no, mi fa piacere che anche lei ricordi, sia pure applicato alla realtà di bilancio della Regione Piemonte, che a fronte di un'invalsa abitudine di tutti, innanzitutto dei media, ma poi della pluralità di interessi del mondo della sanità, ma questo riguarda l'intero perimetro pubblico, che ogni volta che qualcuno parla di efficientamenti dicono basta coi tagli, nella realtà di tagli non se n'è mai parlato, cioè voglio dire non se n'è mai parlato, se n'è parlato tanto, ma di fatto poi la spesa corrente complessiva continua a crescere anche in questi anni di tavolo continuo, di patto sanitario tra Stato e Regioni e di incardinamento di un percorso lungo che dovrebbe portare poi al costo standard rivisto per il meccanismo di convergenza e di perequazione, nella realtà si continua a faticare e a produrre deficit che aumento di spesa rispetto agli anni precedenti. Abbiamo visto la graduatoria la scorsa settimana, nel Lazio ancora oggi siamo su un ritmo di produzione di deficit che è di un ordine di grandezza di 1 miliardo di euro l'anno solo nel Lazio. Detto questo, all'inizio l'accoglienza che hanno avuto nei suoi confronti un manager Fiat eccetera eccetera le forze politiche della maggioranza, dell'opposizione, poi nelle aziende ospedaliere e nelle ASL si trovano poi politiche di tutte naturalmente le venature, qual è stata, che impressione ha avuto all'inizio Monferino? Ma è difficile dentro, intanto inizialmente vabbè, sono stato ricevuto con estrema cortesia e con un formale rispetto, ma devo dire anche sostanziale rispetto per una storia che bene o male mi portavo dietro, la mia storia qui in Piemonte e a Torino in particolare è conosciuta, anche se io ho lavorato per moltissimi anni all'estero, nelle società del gruppo che lavoravano all'estero, CNH in primis, che è il leader mondiale dei trattori. Ecco, quindi direi grande rispetto per le... Però è chiaro che tutte le volte che ci si muoveva toccando poi interessi specifici, beh, nasceva nel momento una serie, non dico di opposizione, ma certamente di dialettica importante sulle cose. Ma questo fa parte, credo, della normalità. Della buona creanza, insomma, ma nella sostanza? Ma nella sostanza in realtà qualcosa siamo riusciti a fare, intanto perché siamo riusciti nel 2011 obiettivamente a contenere i costi, come le dicevo, per la prima volta di invertire addirittura un trend che era sempre stato di salita e siamo riusciti a diminuire i costi. Questo, come le dicevo, è stato fatto con una serie di azioni di contenimento del personale, bloccando il turnover completamente sul personale amministrativo, e questo credo che non abbia provocato dei grandissimi problemi di nessun tipo, bloccando al 50% il turnover del personale sanitario, e in qualche caso questo qualche problemino potrebbe anche avercelo dato. Resta il fatto che noi abbiamo delle strutture che sono estremamente tese come forme, come carichi di lavoro, e ne abbiamo altre che sono molto leggere, per usare un eufemismo, e se avessimo una possibilità, per esempio, che si utilizza nel mondo del privato, di muovere rapidamente il nostro personale dalle strutture dove c'è minor carico di lavoro, quelle che sono tese, anche questi piccoli inconvenienti che potremmo aver avuto sarebbero stati facilmente superati. Questo però nel mondo almeno della sanità pubblica non è così facile, perché ogni azienda sanitaria, noi ne abbiamo 21, ha un suo contratto di lavoro ed è praticamente oggi quasi impossibile spostare personale da un'azienda all'altra, in qualche caso da un ospedale all'altro a distanza di 2, 3, 4 chilometri. Ecco, c'è tutto un mondo di rigidità in questo, da questo punto di vista, che impedisce una razionalizzazione rapida dei costi e dell'utilizzo del lavoro. Questo fa parte delle difficoltà che stiamo incontrando, ma è un tavolo che io ho aperto con i sindacati, devo dire che ho trovato la loro attenzione nel portare avanti questo discorso, però capisco che anche i sindacati lavorano con diversi livelli, con i confederali che dialogano direttamente con noi, capiscono certi tipi di problematiche, aprono certi tavoli, poi quando si scende più sull'operativa, fino ai rappresentanti nelle singole unità operative, è chiaro che le resistenze un pochino aumentano. Comunque non ho perso le speranze, perché ho trovato almeno disponibilità in questa dialettica, questa mobilità è una delle cose fondamentali nel nostro piano di riforma, che prevede molti accorpamenti, molte razionalizzazioni, molte riduzioni di strutture, quindi necessariamente il personale lo dovremo muovere, e è fondamentale per la riuscita della nostra riforma sanitaria. Quindi complessivamente diciamo che non dispera, cioè non dispera, e immagino quindi che poi consideri anche poi l'esperienza di un governo come quello nazionale con un certo interesse, per così dire, cioè naturalmente ognuno si porta dietro la sua esperienza, le storie sono diverse, lei ha una maggioranza politica che le ha chiesto di fare questo mestiere particolare attingendo la sua professionalità, diverso è il caso della maggioranza nazionale, però le chiedo fuori dai denti. Perché la mia reazione quando i colleghi della stampa sono scattati di fronte all'emergere delle centinaia di migliaia di euro della tecnocrazia pubblica venerdì scorso, che non è il totale dei loro redditi ma sono solo le retribuzioni per gli incarichi principali che svolgono, la mia reazione di fronte a quello, vedete, cari ascoltatori, non è moralistica come quella che scatta in Italia spesso dicendo ma insomma, cioè la reazione moralistica, dico che la capisco di fronte alle retribuzioni media, le retribuzioni anche dei quadri a pubblica amministrazione, vedere quei multipli così elevati invece, no? Per capi dipartimento al ministero, membri di autorità o capo della polizia, gli capi di stato maggiore delle forze armate, più di 500.000 euro l'uno, però non è secondo me il criterio che scatta abitualmente, quello moralistico, quello che poi mette dei tetti, subito i tetti poi abbiamo visto quante volte vengono aggirate, visto che è la tecnocrazia stessa a scrivere le norme poi ai politici pro tempore di colore diverso. Io non sono neanche convinto, anche se l'approccio comparativo, di questo secondo approccio, quello comparativo, che possa da solo bastare. Certo, l'approccio comparativo aiuta a capire molto. È fallito per i parlamentari quando ricordate che il governo chiese all'Istat di fare una comparazione tra le basi retributive dei parlamentari italiani e quelle degli altri paesi, e il presidente dell'Istat dovette dire che non solo i dati del Parlamento italiano non erano omologhi rispetto a quelli degli altri assemblee parlamentari, ma che proprio i parlamentari rifiutavano di renderli omologhi. Ricordate che in quel caso la questione fu se le retribuzioni dei collaboratori che i parlamentari italiani si prendono loro, mentre in altri parlamenti vengono date direttamente al collaboratore parlamentare, quindi non passano per le mani del parlamentare, dovessero essere omologate oppure no. Certo, il criterio comparativo ci aiuta un po', perché insomma che il capo della polizia guadagni più di 3 volte il capo dell'FBI inizia a fare riflettere. Il mio criterio è quello economico. Quello economico propone semplicemente che ci siano obiettivi ex ante e misuratori qualitativi e quantitativi ex post di quello che nella pubblica amministrazione si riesce a fare. Nel privato queste cose ci sono, le grandi quotate si può criticare, ma gli MBO e i loro manager li fanno così. Poi si può criticare che siano fatte per criteri di creazione di valore troppo sul breve e così via, sono d'accordo. Ma insomma nel privato i misuratori di performance come obiettivi motivati e come poi misuratori ex post sono una delle componenti fondamentali per creare valore e giudicare la gente per quello che sa fare, non solo perché è amica di, parente di o figlio di. Nella pubblica amministrazione questa roba non si riesce mai a farla entrare, né per la parte apicale che arriva a quelle cifre per 3 cose: A per anzianità, B per aggancio retributivo automatico magari alla retribuzione dei magistrati, C perché ci sono provvedimenti ad hoc per questa o quella persona negati nelle pieghe della legislazione italiane. E se a livello apicale non c'è per quelle cifre, io capisco poi che i sindacati, che di anno in anno, malgrado i tentativi, dicano la retribuzione di merito la si riserva solo per la parte in aggiunta rispetto a quella degli anni precedenti, e a quel punto capite che è poca roba. Allora, la domanda che faccio a Monferino è: lei, di fronte a questi limiti per cui nella PA non si riesce a dare degli indicatori ex ante ex post che davvero motivino, perché facciano il più della retribuzione che la gente porta a casa, perché quello è veramente incentivante, come pensa che si possa fare? Col tempo passerà questa cultura? Oppure i sindacati, è ovvio che essendo le retribuzioni così basse non possano che resistere? Lei che pensa? È un tema di una complessità enorme. Noi abbiamo qui, io sto vedendo intanto la prima grande differenza è che nel mondo del pubblico il personale è pagato decisamente meno rispetto al mondo del privato. Sto restando in Italia e quindi non sto ancora facendo confronti tra Italia, Germania, eccetera. Restando in Italia, il privato, e nel caso mio vedo le differenze enormi tra i dirigenti che avevo nelle mie aziende, Iveco, CNA, eccetera, e quello che paghiamo invece ai nostri dirigenti nel pubblico. Primo problema. Secondo problema, c'è un discorso in generale, no, che riguarda il lavoro in Italia. L'Italia è una una nazione che ha come unica ricchezza la trasformazione, e quindi dovremmo avere una politica industriale del lavoro, eccetera, che favorisce proprio il lavoro. Invece noi tassiamo il lavoro in una maniera terrificante. Quindi quella che dovrebbe essere una delle nostre, dei nostri atu per giocare la nostra competitività a livello mondiale, lo stiamo massacrando per primi noi in Italia. Quindi c'è anche una tematica di enorme tassazione sul lavoro, che porta poi a degli stipendi netti ancora più bassi di quello che presto. Nel mondo del pubblico c'è poi un problema enorme di meritocrazia, che è un termine veramente difficile da... Sulla carta noi abbiamo le procedure, io le ho trovate qui, gli obiettivi dettagliatissimi, insomma i nostri direttori generali delle nostre aziende sanitarie hanno 80-90 obiettivi scritti in una maniera super dettagliata. E in pratica? Che dare 80 obiettivi secondo me è come darne nessuno. Ma in pratica? In pratica il tema della meritocrazia è tutto da riscoprire. Se non si ricomincia a lavorare sulla meritocrazia, e ci stiamo tentando timidamente, perché è devastante per chi invece lavora e fa bene. Temo che su questo ci vogliono gesti di rottura. È facile dirlo a un assessore che trova i politici, però insomma questa è un po' la sensazione che viene dallo scandalo che in questi giorni è rimontato. Io temo che poi lo scandalo, che fa solo indignare la gente, se non viene dall'altra parte risultati concreti, diventiamo solo il popolo di indignati. Gli indignati secondo me finiscono per battere le mani ai Savonarola e tutto finisce in un auto da fè. Questo paese ha bisogno di cose concrete, non di indignazioni inutili. Eccoci tornati qua in studio. Il problema dei tecnici quando la politica li chiama o quando la politica li seduce. Nel caso di Paolo Monferrino è stata la politica a chiamarli, affidandogli da ex manager del perimetro più ampio Fiat, manager molto apprezzato, di ottimi risultati, il difficile compito di rimettere ordine, di riaccorpare organizzativamente e anche contenere energicamente i costi della sanità nella regione Piemonte. Abbiamo con noi anche Giorgio Merletti. Giorgio Merletti è vicepresidente vicario di Confartigianato, presidente di Confartigianato Lombardia, è stato sindaco, è stato più volte assessore di Arsago Seprio, che è un comune in provincia di Varese. Io lo ringrazio, lo saluto, buongiorno Merletti. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, anche a lei faccio, in un ambito diverso, non nella sanità di una regione grande come il Piemonte e problematica come il Piemonte, ma le chiedo anche a lei, come a Monferrino, che cosa ha provato tutte le volte, insomma lei non voglio dire che è un abitué, ma più volte si è lasciato sedurre e ci ha provato. Il risultato concreto è che, vista dal di dentro, partendoci dal di sotto, ma avendo incarichi politici di responsabilità, poi la pubblica amministrazione rispetto a il privato, in modo della piccola impresa, io qui gli do voce un giorno sì e un giorno no, urlando e gridando rispetto a tutto ciò che la pubblica amministrazione ci riserva di complessità amministrativa, fiscale, eccetera eccetera. Ecco, nel suo caso, che considerazioni l'ha indotta a fare a questo punto della sua esperienza di vita? Ci pensa ancora con fiducia e ottimismo di poter mettere le stesse logiche del privato, o almeno un po' di logica del privato nel pubblico, oppure no? Io direi che, stante la mia esperienza, che inizia nel 90 fino al 95 come assessore, dal 95 al 99 come assessore e vice sindaco, e poi dal 2004 al 2009 come sindaco, dico che tutto sommato l'esperienza della vita mi è stato insegnato, ho capito che a mie spese, che del maiale non si butta nulla, esperienze positive e negative. Cosa sono riuscito a portare dalla mia esperienza di piccolo imprenditore? Ma direi, è giusto, forse l'affermazione che ho ascoltato prima fatta da altri, anche letto, il risolvere i problemi quando sono tali in una piccola impresa ci vuole ancor meno che in un'impresa più grande. Nel comune è un disastro. Mi ricordo, ero assessore lavori pubblici, si ruppe il mezzo per sparare la neve, ed era l'Epifania, non mi ricordo di che anno, il mezzo venne restituito al mese di settembre, non dell'anno in corso ma dell'anno dopo. Quindi se si buca la ruota della macchina ci vuole il tempo per fare queste robe qui. Devo anche dire però che delle esperienze positive, quindi esperienze negative, ce ne sono altre, perché ce ne sono parecchie. È anche uno dei motivi che poi alla fine ho detto vabbè, è meglio finirla, perché neanche più ci tornerei. Ma esperienze positive, per esempio, invece sulla gestione degli appalti. applicando correttamente una legge qual era la Merloni-Ter, e io nel frattempo divento presidente dell'associazione di Varese, portando all'interno dell'associazione questi concetti, dicendo si va sulla gara di evidenza pubblica fino a un certo punto, poi la trattativa diventa nell'ultima fase privata, e le cose posso dire che funzionavano, i vecchi sistemi, allora vediamo un po' gli amici degli amici, perché anche nei sistemi associativi a volte hanno delle connotazioni amministrative nel senso negativo del termine, con un sistema di clientelare, se io mi faccio amici, ho amico un certo numero di amici, o perlomeno faccio lavorare questi sono sicuro che mi rieleggono. Io invece sono sempre stato abituato un po' a farmi odiare, pensando di essere corretto, e quindi l'evidenza pubblica, poi chi fa l'offerta migliore, alla fine si va alla trattativa privata con gli sconti e quant'altro. Però, quindi ho portato esperienze positive da un lato all'interno, con esiti direi ragionevolmente negativi, ma questo l'ho fatto soprattutto nel momento in cui divento presidente, non amministratore delegato, direttore generale, ci mancherebbe altro nel mio mestiere, di un'associazione con 200 dipendenti, e vedevo come lavoravano, messi in condizione di fare, perché io ho sempre detto, io sono stato eletto per amministrare, non per gestire, perché in alcuni casi piccoli comuni, quando vedo che il sindaco lì dalla mattina alla sera mi deve spiegare a fare cosa, forse prendersi l'indennità, io dopo 2 anni e mezzo da sindaco dell'indennità non ho voluto più niente avere a che fare, no? E quindi messi in condizione di operare avvenivano certe cose, i carichi di lavoro. Io quando sono stato sindaco, sono tornato in amministrazione dopo 5 anni di pausa a fare il sindaco, ho chiesto il segretario comunale in un piccolo comune al di sotto dei 5.000 abitanti, non abbiamo il patto di stabilità, ma ho detto, ma è possibile avere un carico di lavoro? Perché a occhio si vedevano alcune cose che non filavano. È vero, la pianta organica permetteva di assumere, quindi si poteva pensare anche di fare queste cose, ma era chiaro che poi alla fine i nodi sarebbero poi venuti al pettine. E così è stato. Tenga presente anche un'altra cosa, tengono presente anche gli ascoltatori, che si è andati avanti partendo dal 30% fino ad arrivare a 76, qualcosa, che gli oneri di urbanizzazione potevano e possono fortemente ancora essere usati per la spesa corrente. Questa è stata una bestemmia incredibile, perché la gente, gli amministratori non si rendevano conto. Tenga presente che io abito in una zona vicino a Malpensa, e a un certo punto la grande Malpensa, questa ubriacatura, si è messa a costruire di tutto e di più, cemento dappertutto, appartamenti che ovviamente oggi buona parte sono invenduti, e guarda strano, in questa zona, non tanto qui, un po' più lontano, un po' più vicino a Malpensa, qualcuno è anche finito in galera, l'Andrina ci ha messo molto del suo a essere presente, e quindi qualcosa non ha funzionato. Ma prendere questi danari che erano finalizzati a altre cose, usati per la spesa corrente, è stata un'ubriacatura, si assumeva. Io la mia risposta rispetto ai carichi di lavoro non l'ho mai avuta. Innanzitutto ho detto una cosa corretta a mio modo di vedere al segretario comunale: queste persone in esubero non devono essere licenziate, ma se nell'ufficio tecnico, che è un po' quello che produce danari, no? Poi bene e male abbiamo visto con l'ubriacatura dell'urbanizzazione, male, però era quello, e mancano delle figure, cerchiamo di alfabetizzarle queste persone che sono in esubero in altri uffici, facciamogli fare dei corsi, ci costerà senz'altro meno, e vengono spostate, anche non definitivamente. Mi manco in quell'ufficio mi mancano 10 ore alla settimana, questa persona, queste persone vanno a fare una quota parte di quelle, o vengono pure chi già lavora lì elevati a occuparsi di pratiche più complesse, e chi arriva nuovo. Ma purtroppo queste logiche che noi, funzionavano nella mia associazione di Varese, vedo funziona Milano, ma Roma un po' meno, ma non funzionavano i comuni, ed è un comune non al sud al quale buttiamo sempre addosso la croce, ma è al nord. Sì. Ho fatto un'altra cosa, mi perdoni Giannino, ho fatto una cosa semplicissima, non ancora prevista, poi prevista da una delle manovre fatte ancora dal governo Berlusconi, ho accorpato i servizi con altri comuni. È arrivato chi dopo di me, ho visto che si è rimesso a assumere, adesso se ne smazzerà un po' lui i problemi, l'addizionale IRPEF è qui dietro l'angolo. Infatti il problema è che poi tutto questo però arriva alla gente come i tagli. Qui non è un problema di congruità di risorse, è un problema di come le si utilizza, E il problema è che l'Italia ha continuato, per responsabilità della politica e di chi ha rappresentato i dipendenti pubblici, anche i sindacati, per negli ultimi 2 decenni e mezzo, gli ultimi 3 decenni, ad immaginare e a praticare tassi di sviluppo del settore pubblico che erano coerenti a tassi di crescita del paese come quelli degli anni 60. Una elefantiasi sempre più inefficiente, che naturalmente non conosce le pratiche di messa in mobilità interna tra diverse piante organiche, messa in mobilità anche per eccesso di personale, quando l'eccesso di personale nel settore pubblico italiano è un tabù. Abbiamo visto come altri paesi sono organizzati in materia, sia in Germania che in Spagna. Da noi sono tutte cose intoccabili, e senza di questo ovviamente quello che arriva alla gente è lo Stato centrale che ci affama perché non ci dà i soldi. Io vi invito tutti a considerare ancora che dopo anni di polemiche sulla sanità, trovate sul Corriere della Sera oggi nella pagina 11 una sintesi molto molto molto breve dei giudizi al 25 gennaio dei programmi di rientro delle regioni sotto programma di rientro sanitario appunto in Italia. Trovate il Lazio che ha un deficit ancora di 1 miliardo e 139 milioni annui, la Campania ne ha uno di 696 milioni 400 mila, la Puglia di 420 milioni 825.000, la Calabria ancora oggi è in una condizione nella quale non ha contabilità scritta sanitaria. Ecco, questo è ciò che si vede, altro che i tagli alle risorse sempre lamentati. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. E tornano i Doors, alcuni ascoltatori mi dicevano: ma cosa vuol dire obiettivi ex ante, misurabili ex post? Vuol dire, se sono un funzionario pubblico mi si deve affidare 1, 2, 3 obiettivi precisi da compiere entro una unità di tempo, sulla cui realizzazione devo essere quantitativamente, con una metrica condivisa, e qualitativamente, per la parte che ho avuto io nel migliorare i processi, misurato poi quando scatta il delta temporale, la data alla quale io devo essere misurato, e su quello deve insistere una parte rilevante della retribuzione, soprattutto se parliamo poi di vertici di organizzazioni amministrative, visto che mi riferivo ai capi delle tecnostrutture pubbliche di cui abbiamo appreso venerdì scorso con grande scandalo il livello delle loro retribuzioni pubbliche. Per il solo primo incarico non abbiamo ancora la somma di tutto ciò che poi, grazie a quello che rivestono come incarico, portano a casa come reddito per incarichi concomitanti, ma stiamo parlando di cifre rispetto, come diceva Paolo Monferino, poi a una media invece di pagamento dei dirigenti del settore pubblico enormemente più bassa che nel privato. E insieme abbiamo visto in questi giorni sui giornali, anche stamattina lo trovate, quanto basse siano le paghe italiane. Ecco, quelle sono apicali stellari ed è uno scandalo intollerabile che siano al di fuori di obiettivi assegnati prima e misurati poi su quello che portano a casa con centinaia e centinaia di migliaia di euro. Sentiamo come la pensano un po' di nostri ascoltatori. Roberto che chiama da Cuneo, prego Roberto. È andato giù Roberto, ci abbiamo Gianfranco da Padova, prego Gianfranco. Sì, salve Sergentino, buongiorno. Ho sentito adesso le lagnanze dell'ex sindaco, no? Di sì, Varese, sì. Giù di là, va bene. Secondo me, io ho sempre avuto l'idea che ci sia da capovolgere un servizio, che è quello dei controlli della Corte dei Conti. La Corte dei Conti, esaminando i conti dei comuni e delle province e delle regioni, post, ex post, no, in pratica fa da notaio, prende atto che il comune ha speso 70.000 miliardi. Ma se invece ci fosse un controllo a monte, dove la Corte dei Conti avesse il potere di interdire anche i poteri del sindaco e della giunta di qualsiasi comune, di qualsiasi ente, quando stanziano di spendere dei soldi che non sono previsti nel bilancio di previsione, queste cose non succederebbero. Quindi lei dice un controllo ex ante senza il quale non può scattare il mandato di pagamento. Già siamo in un posto in cui lo Stato ti leva la tesoreria di nuovo, non lo so, perché immagini sottoporre ogni singolo atto a un controllo di questo tipo. Qui l'idea è che si amministra meglio con i controlli occhiuti che impediscono altrimenti di fare. Qui il problema è di avere procedimenti che snelliscano il fare, secondo me, e facciano diventare chiare le responsabilità poi di chi fa. Almeno questa è la mia sensazione. Alfredo dalla provincia di Roma, prego Alfredo. Sì, buongiorno dottor Giannino, a lei e agli ascoltatori. Una osservazione a proposito della elefantiasi dell'apparato pubblico. La questione, a mio giudizio, nasce tutta dalla riforma Bassanini, che in senso positivo dal 97 in poi tentò di introdurre nel settore pubblico criteri e principi tipici del settore privato. In realtà è stato fatto una sorta di ibridazione alla fine della fiera, nel senso che oggi il settore pubblico, pur avendo da un lato, ad esempio dal punto di vista del rapporto datore di lavoro lavoratore, una tipologia di contratto che in qualche modo ha creato un tertium genus, ha creato il terzo genere del lavoratore pubblico privatizzato, che è una cosa che non si capisce tanto da questo punto di vista, tant'è vero che questo tipo di situazione non ha toccato il principio di fondo per cui dagli anni 60 in poi la pubblica amministrazione sostanzialmente è stata considerata, il lavoro nella pubblica amministrazione è stato considerato un lavoro di bassa qualità, tra virgolette, e concepito dal punto di vista. Però la Bassanini tentava di ovviare a questo. Il problema, mi perdoni, per come la vedo io non voglio andare sulla voce di nessuno. Il problema è che i sindacati del pubblico impiego su questo e con la codecisione tendono sempre a volgere a proprio vantaggio. Io per certi versi li posso capire, con gli amici della CIS del pubblico impiego, per esempio, tante volte mi trovo a discutere su questo. E poi diventa altra cosa, come il salario di merito solo aggiuntivo rispetto a quello standard, che non leva nessuno di quello che ha, perché il salario dice ma è troppo poco, ed è vero, però così facendo, come dice lei, anche quando con la Bassanini abbiamo voluto cambiare non abbiamo portato a casa niente. Roberto da Cuneo che dice? Buongiorno, io dico che in un periodo come questo di vacche estremamente magre, per quanto non siano mai state grasse in Italia se non per il governo che ha fatto tutto, è impensabile accettare che, così come le aziende accettano le riduzioni, non le accettino i pubblici e continuino a sprecare delle risorse e dei danari della collettività. L'assurdità è che un'azienda con 20 persone che potesse fare a meno di 5 perché in crisi ne salverebbe 15, non gli viene concesso se non a fronte di pagamenti elevati, inducendo l'azienda a chiudere e quindi a danneggiarne 20. Certo. Questo è paradossale, i sindacati stanno uccidendo il paese. Roberto, la devo interrompere su questo, non so se sia colpa dei sindacati, comunque grazie a Paolo Monferino, grazie a Giorgio Merletti, i tecnici e la loro illusione, per me lo Stato resta troppo ladro. A domani.